il Papa sta facendo questo sforzo gigantesco. E nel discorso di Regensburg del 12 settembre del, e con questo finiamo, del 2006, a Regensburg il Papa ha detto una cosa di straordinaria importanza. Innanzitutto ha ricordato un imperatore bizantino, il terzultimo, che nel 1392 a Brussa in Asia Minore ebbe un contraddittorio con un dotto persiano islamico, e in quella discussione viene riportato nel discorso di Regensburg l'affermazione lì: non è razionale che Dio ordini a un uomo di uccidere un altro uomo in nome suo, e non c'è nessuna possibilità di affermare la razionalità di una cosa del genere. E poi il Papa ha rincarato la dose dicendo che la Sura seconda, il versetto 256, diceva: nessuna costrizione nelle cose di fede. Quindi Maometto ha colto questo aspetto della tolleranza religiosa, tolleranza che è un termine equivoco e io lo impiego con molto dispiacere. Bisogna che ci sia una conoscenza tale da poter discutere sul valore di verità della fede. E nel discorso di Regensburg, che ha avuto una risonanza del tutto sproporzionata alla citazione, ma perdonate, io ho saputo, perché me l'hanno detto amici islamici, che il New York Times per 4 giorni dopo il discorso di Regensburg continuò a ripetere: il Papa ha attaccato i musulmani. E allora, dopo esserselo sentito dire per 4 giorni dal più grande giornale mondiale, certamente ci sono stati quei gesti di intolleranza con l'uccisione di alcune persone che sono. Beh, il New York Times, la proprietà è ebraica, e che quindi il problema è sfuggito da tutte le parti, e che quindi, ecco dove vedo i 3 documenti del dialogo col mondo islamico, da parte della Chiesa Cattolica, da parte del mondo islamico, non c'è alcuna autorità centrale che possa parlare per tutti gli islamici. Che quindi io credo che avremo sempre a che fare con la sordità, in un certo senso. Ma sul futuro io non faccio nessun tipo di previsione. Ho cercato di indicare quali sono stati i precedenti dei rapporti islam-cristianesimo, le differenze, e adesso dobbiamo attendere lo sviluppo degli avvenimenti. Grazie della vostra attenzione. Grazie professor Torresani, penso che le cose che ci ha detto sono spunti ulteriori per approfondire l'argomento, diciamo, perché giustamente non si esaurisce qui in questa sede, poi ognuno singolarmente potrà avere modo di approfondirlo personalmente, diciamo, con il proprio studio e interesse. E io avvierei le domande, se ci sono, e per rompere il ghiaccio le faccio 2 domande, una da giornalista e una da donna. Da giornalista, dunque, dal punto di vista, diciamo, di dialogo, è quasi opinabile quindi la possibilità di incontro tra cristianesimo e islamismo, proprio perché non c'è un capo che media, diciamo, nel mondo islamico con un capo cristiano, che in questo caso è l'autorità del magistero. Come fare per il futuro? Giustamente lei diceva: non posso dire quello che sarà, però è vero che le basi si possono in un certo senso prevedere. Dal punto di vista di donna, la donna e l'Islam. Ultimamente abbiamo avuto modo di seguire l'avvenimento doloroso di questo omicidio che c'è stato della Benazir Bhutto, una leader pakistana che per 2 volte è stata primo ministro, per 2 volte si è dovuta dimettere perché accusata di corruzione, ha sofferto anche l'esilio, ha sofferto per il proprio paese, per dare democrazia e modernità. Se vogliamo, un'icona anti-islamica, in un certo senso, una donna che è stata leader, però donna islamica. Qual è stata e qual è oggi, possiamo dire, la figura e l'importanza della donna nel mondo musulmano? Noi sappiamo che la donna per il cristianesimo è stata sempre tutelata sin da Cristo fino al Concilio Vaticano II, con il Papa Giovanni Paolo II abbiamo avuto delle encicliche stupende, dalla Mulieris Dignitatem alla Lettera alle Donne. Benedetto XVI ancora oggi parla del genio femminile. Che differenza c'è tra questo senso di appartenenza della donna al mondo musulmano e come possiamo capirlo noi donne, se vogliamo, non solo europee, ma anche le musulmane stesse, perché anche loro hanno scritto e si sono contraddette nelle scritture che ci sono nella letteratura musulmana femminile? Io ringrazio, sono domande gigantesche e quello che reputo sia scorretto e nei rapporti con l'Islam l'atteggiamento assunto per esempio in occasione della discussione sulla Costituzione europea sulla presenza o meno di radici cristiane nella storia europea. Nessuno, perché sarebbe un mentitore, può negare che in passato il cristianesimo abbia avuto una posizione direi dominante in tutta la tradizione del pensiero occidentale, ci mancherebbe altro. E probabilmente Chirac e Giscard d'Estaing, che sono stati i due sostenitori della esclusione della menzione delle radici cristiane d'Europa, era prevedendo che per il futuro il cristianesimo debba ridursi a un fatto di coscienza individuale, che i cristiani non diano fastidio con le loro questioni personali, come se il cristianesimo non avesse il dovere di presentare una morale su alcuni avvenimenti di estrema importanza, così rifacendosi alla legge divina. Quindi questo è una sorta di assurdo. Affermare che i principi della rivoluzione francese o i principi della democrazia abbiano un valore assoluto, questo è un'affermazione del tutto dogmatica. Io credo che in questo senso bisogna, probabilmente la cosa migliore che può fare ciascuno di noi è conoscere molto più a fondo la propria religione cristiana e la importanza che ha avuto e che dovrà avere per regolare le nostre azioni. Lei mi ha offerto lo spunto per dire che quando io ogni tanto per dovere d'ufficio leggo certe cose, che per esempio il cristianesimo è stato maschilista e così via, inorridisco, perché ho ancora il potere di inorridire. La Madonna nel terzo concilio è stata chiamata madre di Dio, non c'è nessun uomo che abbia ricevuto il titolo di padre di Dio. Significa che in forza della unione, si dice ipostatica per dire in senso forte, tra l'umanità e la divinità, tutto ciò che si può dire dell'umanità la si deve dire anche della divinità in Cristo. Quindi essendo Maria vera madre di Cristo ed essendo in Cristo perfettamente unita la divinità, è giusto titolo dire che la Madonna è madre di Dio, che quindi la dignità femminile nella Chiesa, addirittura la più alta fra tutte le creature, è una donna. Quindi questo, le donne sono sempre state convinte di questo, quindi lo possiamo accettare, questa specie di priorità in qualche modo.